Tempo di sport con Carlo Genta. Nel salotto del Bernabeu, buongiorno a tutti. Naturalmente nel salotto del Bernabeu è in corso il Mourinho Day con presentazione in pompa magna, prime dichiarazioni ufficiali, firma del contratto in diretta TV, eccetera eccetera eccetera. Poi ne parliamo, vi faccio sentire anche le prime dichiarazioni di Mourinho da allenatore merengue, che sono un po' diverse da quel "io non sono un pirla" con cui si era presentato all'Italia e ai tifosi dell'Inter, qui molto più misurato e compassato. Però vorrei partire da un'altra strada, è proprio il caso di usare questa parola, perché vorrei partire dalla strada che si è conclusa ieri a Verona per i corridori del Giro d'Italia. Ivan Basso, ieri ne abbiamo parlato a lungo, con grande piacere, ha vinto il Giro, è il presente, è il grande ritorno. Ma non mi sentirei, in tutta onestà, non so voi, 800 24 00 24, numero verde, non mi sentirei di dare un voto inferiore a Vincenzo Nibali, che è stato il secondo violino della Liquigas. È stato per Basso ciò che, sapete che mi piace il basket, no? È stato per Basso ciò che Scottie Pippen è stato per molti anni per Michael Jordan. È certamente, se Basso è il presente, Nibali è certamente il futuro del nostro ciclismo. E questa mattina la maglia rosa, il capitano, lo ha detto chiaramente: Nibali è un ragazzo che dall'anno scorso a quest'anno ha avuto una crescita incredibile, nei prossimi anni terrà alto il nome dell'Italia nelle più importanti corse, ha un futuro grandioso davanti a sé. Ha detto poi Basso: speriamo che invece del dualismo ci sia un successo a testa per me e per Nibali nei prossimi giri. Vincenzo Nibali, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. Grazie, grazie Vincenzo. Secondo violino, ciò che è stato Pippen per Jordan può bastare per il momento, ma magari in futuro no. Sì, ho ascoltato le tue parole come poco fa, come tu hai detto. Sicuramente in futuro potrebbe essere, come ha detto Ivan, un giro magari a testa, chissà. Comunque questo grande giro mi ha dato tanto e grandi emozioni, e chissà magari in futuro di poterne conquistare uno. Sì, Vincenzo, sai che è piaciuto molto ieri anche con Piero Augusto Stagio, che per noi ha seguito il Giro d'Italia, e lo ringrazio oggi ancora pubblicamente. Ieri abbiamo detto molte volte che è piaciuto molto il tuo atteggiamento, la tua grande disciplina in questo Giro d'Italia. Non è una cosa banale nello sport di adesso. Ieri abbiamo visto ad esempio le Red Bull buttarsi fuori una con l'altra, ma è solo l'ultimo esempio, ce ne sono tanti. Questa dedizione non è così banale, Vincenzo. No, una dedizione molto particolare, perché sai, dalle grandi competizioni, dei grandi giri come può essere un grande Tour de France o un Giro d'Italia o una Vuelta, ho sempre corso con grande attenzione, quindi sempre molto, molto attento, correre sempre nelle parti, nelle prime posizioni della gara, quindi è quello che poi mi ha permesso di avere un grande risultato alla fine di questo giro. Sicuramente questa linea sarà anche importante per il futuro, e è giusto mantenerla così. Senti Vincenzo, il giorno più difficile e il giorno più importante magari coincidono, magari no, quali sono stati per te e per la squadra? Ma io credo che il giorno più difficile è stato quello di Montalcino, quando io ho perso la maglia rossa e sono caduto. Quello più importante invece penso che è stato quello del Mottiolo, quando abbiamo riconquistato la maglia rossa sul campo, ecco, sulla strada. Mentre sabato sul Gavia nessun problema. Io ho detto da questi microfoni, mi ricorda l'Inter questa Liquigas, tiene la situazione sotto controllo con un grande gioco di squadra. Beh, è stata la giornata dei Gavia, è stata una giornata molto particolare, difficile, e ci hanno attaccato da chilometro zero, quindi è stata la nostra compattezza della Liquigas Doimo a cercare di controllare il margine che avevamo sui fuggitivi, che oscillava sempre dal minuto e mezzo ai 30 secondi, e devo dire che siamo stati veramente bravi, quindi quel giorno la squadra è stata molto fondamentale e siamo stati molto freddi noi a saper tenere in mano la corsa. Vincenzo, è stato un bel giro però questo, anche se continuo ad avere l'impressione che il ciclismo stia pedalando sempre in salita per riacquistare tutta la sua credibilità, però è stato un bel giro, è piaciuto a tutti, credo anche a voi corridori. È stato, sì, sicuramente, guarda, è stato veramente un giro molto fantastico, con tanti colpi di scena e tante tappe molto, molto particolari. Sicuramente l'ultima settimana è stata molto entusiasmante, con quegli arrivi del Tonale, quello del Plan de Corones, tutti dei paesaggi veramente molto a fiato, quindi sono delle vere immagini che resteranno impresse non soltanto magari a me come corridore, ma a tutta la gente. Poi l'arrivo in quel di Verona, nell'arena, è veramente una cornice veramente strepitoso. Bella la tua storia, ma tu senti la responsabilità di essere portabandiera del Sud e di un ciclismo del Sud che non ha mai avuto grandissimi interpreti? Ma a me mi fa veramente molto onore, ci sono stati dei grandi corridori, posso magari in tanti anni passati come Giovannino Corrieri, sempre, sì. Sempre messinese anche lui, che è stato un grande gregario, quindi, però essere ad alti livelli così mi fa veramente tanto piacere, penso che è anche uno stimolo per il Sud, per invogliare magari quei ragazzi che amano il ciclismo così, o lo sport in genere, ecco. Bravissimo Vincenzo, ti faccio parlare con un ascoltatore che è Carmine da Napoli. Buongiorno Carmine. Buongiorno. Dica. Ringrazio avermi chiamato. Vincenzo, salve, buongiorno. Senti, io non ho mancato un minuto vicino al televisore, di cui poi mi sono recato a Maddalena a vedere la tappa. Ma siete stato stupendo. La Liquigas, di cui conosco il direttore di Napoli della Liquigas, volevo farti questa domanda: come ti sei trovati con Bass davanti e tu a fargli da guida? Gliela rigiro io perché l'audio era un po' disturbato, non so se Vincenzo Nibali l'ha sentito perfettamente. Chiede Carmine da Napoli come ti sei trovato in questa corsa a fare appunto lo scudiero di Ivan Basso. Ma è stata una corsa molto particolare perché io e Ivan Basso siamo stati molto bravi a non, diciamo, a non litigare tra di noi e avere fiducia uno dell'altro, quindi bisogna riconoscere magari lungo la strada chi è il vero leader in questo momento, quindi l'ultima settimana Ivan Basso aveva la maglia rosa veramente ad un passo e per me era un pochino più difficile, più complicato, quindi bisogna riconoscere anche il giusto valore, quindi la nostra comune forza di tutti e due insieme, anche quella della Liquigas Doimo, ci ha permesso di poter vincere questo giro e di poter prendere anche per me un bel piazzamento nel podio, ecco. Senti, ma credi che ti debba qualcosa adesso Ivan, in una prossima cosa? Pensi che ti restituirà il favore? Ma ci siamo restituiti tanti favori in questo grande giro, quindi posso parlare anche della tappa con l'arrivo sul Tonale, dove sì, un attimo in crisi Ivan è stato veramente bravo a portare via un abbuono a Scarponi che poi è stato decisivo per il terzo in classifica, ecco. Come posso essere stato io decisivo per lui magari nella tappa di Montalcino, magari del Grappa, quando io ho attaccato e lui è rimasto sulle ruote, sì, degli altri mentre seguivano. Ti chiedo ancora questo, è cronaca, Basso al Tour e tu alla Vuelta da capitano, confermi? Sì, potrebbe essere una buona prerogativa, quindi bisogna ancora vedere, avrò modo di recuperare le energie in questi giorni, poi sceglierò come puntare sulle prossime gare. Bocca al lupo e grazie Vincenzo, e grazie per oggi, ma soprattutto per questo Giro d'Italia, per questa corsa che hai fatto, che ripeto non è così banale vedere un atteggiamento di questa disciplina in un corridore emergente di così tanto talento. Io ringrazio Vincenzo Nibali, tra poco dopo il traffico invece cominceremo ad affrontare il Mourinho Day, non dimenticherò mai l'Inter. Ha appena detto Mourinho questa e molte altre cose. Io so bene che la discussione ciclismo doping non avrà mai fine. Dicevo prima a Vincenzo Nibali che questo ciclismo sta pedalando in salita, su una salita molto dura, per riacquistare la credibilità perduta che ancora non c'è. So benissimo come sarà molto difficile, è inutile illudersi per Ivan Basso, che porta e porterà sempre, ma lo porta con grande dignità, permettetemi la parola, con grande coraggio, il tatuaggio dell'infamia. Sarà difficile ottenere un perdono completo. Questo è una Sono domande che mi pongo ad ogni inizio di grande corsa a tappe, anche il giorno dopo, quando queste finiscono. E pertanto non posso ignorare le riflessioni anche degli ascoltatori. Sono questi momenti, scrive un ascoltatore, in cui bisogna dire che Basso andava radiato. Troppo facile quando uno è nella polvere. Però Basso nella polvere c'è stato, senza ottenere chiedere né ottenere sconti. Ha pagato tutto quanto, a differenza di altri corridori, come ad esempio Valverde. Sappiamo bene, stessa identica posizione di Basso, e nessuno che l'ha mai buttato giù dalla bicicletta, nemmeno per un minuto. Lui ha pagato. Ieri, parlando con Alfredo Martini, che continua a considerare la voce della coscienza pulita del nostro ciclismo, 89 anni, l'ex GT, ha detto: ha pagato, più di così che cosa poteva fare, che cosa gli si poteva chiedere? io credo nulla, insomma. Quindi complimenti a Divan Basso, almeno da parte mia. Adesso però vorrei andare sul Mourinho dei presentazioni in pompa magna, ma con grande sobrietà, devo dire, sia nella cerimonia. È arrivato in Ferrari al Bernabeu, Ferrari blu, è sceso, abito blu elegantissimo, cravatta in tinta con l'abito e con la Ferrari, e parole anche molto misurate, poco mourinhesche, se vogliamo. Vi faccio sentire alcune battute di Mourinho. Sono nascito per entrenare con il Real Madrid. Non so se sono nato per allenare il Real Madrid. Sicuramente nasci per però sicuramente sono nato entrenare football. Per fare l'allenatore di calcio. Sono entrenatore allenatore di calcio. I miei gusti sono detto más importanti. La mia attrazione delle cose più per il Real Madrid importanti è l'attrazione. È la mia attrazione per il Real Madrid, storia, l'attrazione per la sua storia, per le sue frustrazioni, per le sue frustrazioni anche degli ultimi anni, per le sue aspettative e per le sue aspettative di ganare, di vincere. Questa è la mia attrazione. Questa è l'attrazione che ho verso il Real Madrid. È un club unico. Che mi gusta pensare. Però una cosa che mi piace pensare. Che i miei giocatori pensano esattamente lo stesso, è che i miei giocatori pensano esattamente lo stesso, è che nel Real Madrid, una cosa bella non è tanto giocare nel Real Madrid, non è tanto allenare il Real Madrid, ma la cosa più bella sarebbe vincere nel Real Madrid. E questa è la mia motivazione. Allora, io non parlo di Mourinho e di Spagna senza chiamare Filippo Maria Ricci, che oggi si è perso la presentazione ufficiale di Mourinho, ma avrà 4 anni, almeno stando al contratto, per quel che può valere, per seguire ogni passo di Mourinho madridista. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Sì, dopo 2 anni al Chelsea, adesso me lo ritrovo al Real Madrid. Quindi sei già allenato. Sì, però in Inghilterra ovviamente è molto diversa, la pressione mediatica, lì c'era una conferenza stampa prima della partita, una dopo, allenamenti chiusi, tutto molto, un'atmosfera molto, no? Immobilizzata, molto chiusa, e qua a Madrid è tutto diverso, e anche, secondo me anche Mourinho si dovrà poi abituare, questa secondo me sarà la vera sfida nella sfida. Che Mourinho ti aspetti in Spagna? Un Mourinho all'italiana o un personaggio diverso? Oggi nella conferenza stampa di presentazione abbiamo sentito solo un estratto, però è stato estremamente sobrio, ma ha avuto parole molto dolci anche per l'Inter, ci mancherebbe altro, gruppo fantastico, non dimenticherò mai quella squadra, eccetera eccetera, insomma solite cose, niente di eclatante. Che Mourinho ti aspetti? Cambierà ancora. Era diverso il Mourinho che io ho visto in Italia rispetto a quello che avevo seguito in Inghilterra, e sarà ancora diverso il Mourinho spagnolo. E secondo me una delle sue grandi doti è quella di sapersi adattare e di saper, come si può dire, cercare i suoi nemici, e stuzzicare e provocare le sue battaglie. Qui saranno diverse e lo vedo preparato per una nuova sfida che sì, inizialmente secondo me lo prenderà anche un po' di sorpresa. Io non so quanto lui si renda conto di quello che è il Real Madrid, al di là un po' delle fanfaronate sul bel gioco, che bisogna vincere, giocare bene, però c'è una stampa molto molto particolare, c'è una stampa di regime, mettiamola così, insomma, se mi si passa il termine, c'è la stampa di Barcellona che invece ovviamente getterà alcol sul fuoco, e lui dovrà un po' barcamenarsi. Se parli con uno, dopo fai fatica a parlare con l'altro, oppure l'altro si può rabbuiare, è molto bianchi e neri, è molto divisa la stampa anche a Madrid, per cui questo sarà interessante e gioca una parte rilevante, molto rilevante all'interno del Real Madrid. C'è chi scrive: ma scusate, finalmente abbiamo spedito Mourinho in Spagna e dobbiamo seguirlo ancora là, basta, ha detto che gli facciamo schifo, lasciamolo là. Ma molti messaggi di questo tenore, insomma. Però la cronaca ci dice che Mourinho in questi minuti è stato presentato al Real Madrid e non mi sembra qualcosa di banale questo. No. Seguiremo, e come, perché in realtà uno dice così, però anche Kakà e Ibrahimovic sono stati seguiti con passione, probabilmente nelle loro disfatte c'è stato quel pizzico di soddisfazione che secondo me ci sarà anche in caso di disfatta di Mourinho, certo, che in realtà sarà seguito e avrà un'attenzione particolare, e secondo me il Real Madrid, che già ha tanti nemici, se ne fate ancora di più, perché è chiaro che adesso tu spendi, questo è un investimento, non dimentichiamo, da quasi un centinaio di milioni di euro solo per cambiare allenatore. È chiaro che quando tu spendi queste cifre, se poi le cose vanno male, c'è soddisfazione per tanta gente, ovviamente. Sì, no, ma aumentano molti anche soldi, i gufi. Molti nemici, no? Molti soldi, molti gufi, caro Filippo. Ma poi tra l'altro, insomma, ha cominciato con un autogol abbastanza clamoroso, secondo me, sgarbato con l'Inter e superficiale con il Real Madrid e con Florentino Perez. No, io francamente in tutta questa storia non ho capito perché avesse tutta sta fretta, non l'ho capito, ma da uno intelligente ed egocentrico come Mourinho non mi sarei mai aspettato un comportamento alla fine autolesionista. Sì, è partito con il piede sbagliato, tant'è vero che Florentino è dovuto intervenire di persona, quando probabilmente Florentino si è anche, non dico coperto di ridicolo, ma si è trovato in situazione molto difficile quando ha presentato un allenatore che ancora non era suo, e probabilmente qualcuno gli aveva fatto credere che era suo, poi è dovuto venire a Milano, aprire il portafoglio e tirare fuori i soldi, e dopo allora l'allenatore è diventato suo. In tutto questo c'è stata una mancanza di forma che al Real Madrid non è piaciuta, anche perché poi lo stesso Real Madrid si è messo in una situazione di imbarazzo con l'Inter che non voleva, e alla fine poi per uscirne cosa è stato necessario? Sempre il solito, il dinero, no? I soldi, per uscire, esatto, tira fuori il grano e allora dopo non c'è più l'imbarazzo. E io Mourinho non l'ho capito, insomma, poteva tornare a Milano con la squadra, esatto, voglio dire, festeggiare, e poi il giorno dopo, tanto era una cosa che sapevano. È quello che dicono tutti, infatti non, i conti non mi tornano, i motivi sfuggono, così come quelli di Lippi nell'addio alla nazionale, questa è un'altra vicenda interessante di cui parleremo, perché mi interessa molto. Senti, ma un'ultima sul Real, oggi ha detto ci servono 3 o 4 giocatori, però non faccio i nomi perché sennò il prezzo sale. Li ha fatti l'altro giorno in una sua prima intervista all'allenatore del Real. Maicon è scontato, no, che ci sia l'interessamento del Real Madrid. Di Maria ha detto se non costa troppo, poi magari un vecchio, Lampard, Gerrard, chi lo sa. E poi? Beh, Kolarov non è uno degli uomini. Allora, il Real Madrid, la cosa più bella secondo me di Mourinho, che dice no, dice servono 3 o 4 giocatori difensivi che ci aiuteranno ad attaccare meglio. Sì. Ecco, questa è la prima cosa che dovrà, è il primo concetto che dovrà far passare con l'esigente pubblico del Bernabéu. Che no, è chiaro, no? Da una parte qui ci sono, come si gioca su due livelli, da una parte la facciata per cui bisogna giocare bene, così, dall'altra il pubblico che vuole vincere. Adesso è chiaro che se lui gli compra, diciamo, durante l'estate questi 3 o 4 giocatori di questo profilo, De Rossi potrebbe essere anche un altro, no? Giocatore al quale è interessato. Poi bisognerà, cioè, perché lui cerca l'equilibrio di questa squadra, questa è una grande rosa completamente squilibrata, no? Con gravi problemi, diciamo, tra la parte offensiva e la parte difensiva. E questi sono i nomi. Adesso vediamo, tanto il prezzo sale comunque, quindi sì, non è inutile, certo. Così, e verranno pagati tutti, diciamo, verranno spesi i soldi che saranno necessari. E poi vediamo, è chiaro che, voglio dire, lui è da una parte anche furbo, nel senso che arrivare al Real Madrid dopo che sono 6 anni che esce agli ottavi della Champions, salvo un cataclisma, dovrebbe far meglio, no? Sì, salvo un cataclisma, sì. Esatto, e l'unica cosa che io l'altro giorno gli ho fatto proprio la domanda personalmente, gli ho fatto la domanda a Florentino, dico cosa le fa pensare che dopo aver usato 7 allenatori in 4 anni, questo, diciamo, gli ha fatto firmare un quadriennale, potrà durare. Florentino si è scusato per gli errori commessi in precedenza, e poi ha avuto un grande lapsus, secondo me molto interessante, perché lui ha detto, dice, prendendo Pellegrini abbiamo preso il miglior allenatore del mondo. Allora io l'ho guardato e ho detto, no, forse Mourinho. Dice, sì, volevo dire Mourinho. Secondo me c'è grande confusione in tutto questo. Pochino sì, tanto che oggi più avanti, no? Tanto che oggi, secondo me, a parte su questa storia dell'atteggiamento difensivo e giocare bene, che Matteo ha detto molte volte, mi somigliano tanto a masturbazioni mentali di cui i madridisti sono prigionieri. Oggi è stato chiesto, ma cambierà l'atteggiamento difensivo? Lui, ho giocato 3 finali, ho fatto 8 gol. Una cosa è organizzazione di gioco, un'altra è gioco difensivo. Su questo pensiero di Mourinho non fa una piega, ma l'abbiamo già detto molte volte, no, Filippo? Però la cosa più interessante della giornata di oggi non sono state le parole tutto sommato piatte di Mourinho, quanto quelle iniziali di Valdano, che lo ha presentato dicendo abbiamo idee di calcio diverse, ma da oggi decide tutto lui. Perché qui c'è anche da raccontare un altro retroscena, che quando era, diciamo, columnist di Marca, in 2 occasioni Valdano ha parlato malissimo di Mourinho, non come persona ma come allenatore. Allora ovviamente in questi giorni è venuta fuori la cosa, e lui, che è un filosofo, Valdano, se l'è cavata con maestria, però insomma sempre arrampicandosi un minimo, tirando su quel corpo da 1,90 su degli specchi abbastanza scivolosi. È chiaro che c'è un dilemma tattico, c'è un dilemma filosofico quasi qui, vediamo anche lì come va a finire, insomma, perché comunque Valdano è molto legato a Florentino, lui aveva portato Pellegrini, tutti pensavano che dovesse andare via, per ora rimane al suo posto, però è chiaro che il calcio di Mourinho è un altro calcio, certo. Una partita come quella fatta al Camp Nou la puoi fare con l'Inter, ma certo non la puoi fare col Bernabeu, perché anche se esci vivo, poi dopo i tifosi sono talmente angustiati che non vai da nessuna parte, sì, per cui sì. Questa è la vera sfida in realtà, non è vincere il campionato spagnolo, alla fine è una lotta a due tra il Celtic e il Rangers di Spagna, sì. Ti può andare bene, può andare male, la Champions lo sappiamo che alla fine è anche legata ad episodi, e la vera sfida secondo me è quasi appunto culturale, filosofica, di vedere se questo Mourinho, che lui dice di no, ma io l'abbiamo visto per tanti anni, gioca un calcio non certamente bello, sì, riesce ad imporsi la sua personalità, le sue parole, un po' il suo show in un'arena quale quella del Bernabeu, che è comunque un'arena complicata, isterica, sì, distaccata, insomma, molto molto particolare. E questa secondo me è in realtà quello che poi ci farà piacere seguire, insomma, al di là dei risultati. Questa è la grande sfida di Mourinho, cioè la sfida di Mourinho all'estetica del Real, perché più che bel calcio direi senso estetico, certe volte eccessivo del Real Madrid e dei suoi tifosi. Grazie Filippo, a presto. Grazie a voi, un abbraccio. Scrive Lorenzo da Como, io sono interista ma in questo momento vorrei essere tifoso del Real. Oppure, ma perché firmare contratti di 4 anni se dopo 2 lo cacciano o scappa, scrive Giordano. Ascoltatori, Sergio da Modena, buongiorno e grazie per l'attesa. Buongiorno. Buongiorno. Senti, volevo chiedere una cosa. Sì. Io ho 37 anni e sono un tifoso dell'Inter, ok? E tutti gli anni si sente qualche grande giocatore, qualche grande allenatore che vuole andare al Real Madrid per il blasone, per la storia, per il prestigio, eccetera, eccetera. Ma io sinceramente, negli ultimi, da quando si è il calcio, blasone, prestigio, ho visto più il Milan, il Liverpool, il Manchester, ma di Real Madrid ho visto poi poco a livello europeo. Cosa ne pensa? Beh, qualcosa si è visto, Sergio, anche se mi sembra che, insomma, parlano di blasone, prestigio, eccetera, eccetera, dimenticando la parola quattrini, perché da quelle parti è, insomma, quasi scontata. Però cose molto importanti le ha dette l'altro giorno Eto'o, no? Ha detto l'Inter ormai è una squadra dalla quale non si va via, nella quale si arriva e con grande piacere. Chiaro che Real Madrid e tutto quello che c'è intorno, compreso il denaro, compreso il grano, ha un suo fascino irresistibile, unico, al di là del fatto che poi i trofei, insomma, anche negli ultimi anni siano arrivati con discreta regolarità, soprattutto sul fronte interno. Carlo, provincia di Savona, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi scusi, signor Gente, io volevo porre una domanda, un quesito. Sono un tifoso sandoriano. Sì. Ritiene sia possibile, con l'avvento di Prandelli sulla panchina azzurra, qualche chance in più per Antonio Cassano, che credo che da qualche anno stia dimostrando di essere un giocatore cambiato e sempre valido tecnicamente, ecco. Io la ringrazio perché l'argomento volevo trattare ed è molto interessante. Il più interessante della domenica è quello della rivoluzione copernicana che si è verificata in seno alla Federcalcio, perché mai mi sarei aspettato di partire per una spedizione mondiale con un nuovo allenatore già insediato, già sotto contratto. Mi pare sia un... faccio i complimenti a tutti i protagonisti di questa vicenda, perché mi sembra un salto verso il futuro davvero epocale. Ieri Lippi ha detto è l'uomo giusto al posto giusto, io ho comunicato a Natale la mia decisione di andare avanti non più di un anno, cioè non più di questi pochi mesi che si separano dal mondiale e poi di lasciar perdere dopo il mondiale con la nazionale. È già stato sostituito. Ecco, io credo che questo abbia importanti risvolti. Da un lato disinnesca in maniera considerevole la critica, no? Perché Lippi sappiamo già che non è in cerca di una riconferma, sappiamo già che non vale, non varrà dire ma resto se ne va, ma se fallisce se ne va, ma chi viene dopo di lui. Insomma, partiamo per il mondiale con il 50% degli argomenti in meno, e questo mi sembra molto interessante, quindi sarà totalmente libero di fare, disfare, sbagliare. È molto importante anche la precondizione che abbiamo saputo ha posto ai giocatori, tutti quelli che ha convocato e che stanno lavorando con lui, e ha detto allora io vi porto, però giocate dove dico io e fate quello che dico io. La risposta da parte di tutti quelli che oggi sono a Sestriere è stata sì, e dunque Lippi avrà una libertà mai vista per un commissario tecnico italiano ai mondiali. Il giorno dopo l'uscita dell'Italia sarà tutto un altro film, sarà tutto diverso, lo sanno gli stessi giocatori. Vedremo una nazionale profondamente differente da questa, che è chiaramente a fine ciclo, è chiaramente anziana, e quindi mi sembra una situazione estremamente interessante. Io credo che Prandelli sia il CT giusto, credo sia risponda perfettamente all'identikit del CT ideale. Tra l'altro, particolare da non trascurare, alcuni dicono che è stata una scelta di retroguardia perché era la soluzione forse migliore, ma tra quelle disponibili in questo momento, mentre un mondiale, lo sappiamo bene, apre mille porte, mille campi diversi da esplorare. Però non dimentichiamo che Prandelli è uno che è abituato a lavorare molto con i giocatori giovani. Alla Fiorentina ha fatto un lavoro importante con una rosa sempre molto, molto verde. Io credo che la nazionale del futuro, del dopo Lippi, del dopo mondiale, sarà profondamente diversa da questa, anche dal punto di vista filosofico. Dunque io mi aspetto di vedere senz'altro Cassano, mi aspetto di vedere senz'altro Balotelli nella nazionale di Prandelli, e mi aspetto grande attenzione, grande sinergia nei confronti dell'Under 21, che è poi il serbatoio privilegiato. Mauro da Modena, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo, nel parlare di Del Neri, volevo chiedere, io non so se Del Neri sarà l'allenatore giusto per la Juventus, soprattutto arrivando in una squadra come in questo momento, come non mai, ha bisogno di tornare a certi livelli, però darei tempo al tempo, nonostante le critiche che gli siano, da alcune parti siano già piovute addosso, secondo me inutilmente. Sì. Ricordiamoci che al Porto, secondo me, non gli hanno neanche fatto iniziare la stagione, a Roma ha trovato un ambiente un po' particolare, e però dove è andato, soprattutto il miracolo Chievo, l'Atalanta ha fatto bene anche lo so, Mauro, però il problema è che il tempo non c'è adesso per la Juventus, non ce n'è più, è finito, il tempo è finito. Del Neri è un bravissimo allenatore, una persona che a me piace molto, un professionista che a me piace molto, però si trova per la prima volta in una situazione di questo tipo. Non sono così convinto sia la scelta ideale per un club che di tempo appunto non ne ha più. Dunque non sarà un compito semplice, secondo me, quello di Gigi Del Neri. Io saluto e ringrazio invece dalla Gran Bretagna Giancarlo Galavotti, inviato della Gazzetta dello Sport, che ieri ci ha raccontato sulle pagine della Rosa per filo e per segno con grande precisione qual è la situazione di Fabio Capello. Buon pomeriggio, Giancarlo. Buon pomeriggio a voi. Senti, già che ci siamo dal tuo osservatorio privilegiato, l'argomento di prima, Prandelli già insediato, è una specie di rivoluzione culturale per il calcio italiano, eh? Beh, direi senz'altro che sì, anche perché appunto, visto che in Italia, e non solo in Italia, poi comunque l'Italia sempre lascia sorprese per certi tipi di manovre, sempre sotto banco, invece il fatto che sia tutto chiaro e solare prima ancora che venga calciato un pallone nel mondiale, nell'ultimo mondiale di Lippi, potrebbe anche essere un segno positivo sotto molti aspetti, cosa che l'Inghilterra invece, se vogliamo, è in una situazione molto italiana in questo momento. Molto italiana, o anche molto inglese, perché poi la storia della federazione inglese, che è la più vecchia del mondo e quindi ovviamente soffre di una certa arteriosclerosi, come dimostrato negli anni, per cui anche come la questione Capello è stata gestita, ovviamente è stato un assist strepitoso per quello che l'Inter o che lo stesso Capello hanno in mente di fare. Sì, ecco, l'unica cosa che non capisco, ho letto con attenzione quanto hai scritto ieri, quindi la situazione è chiara nella sua peculiarità, no? C'è questo accordo verbale che però non è stato ratificato, perché alla Football Association i vertici cambiano con la rapidità del suono, travolti da scandali e da altro. Ma la cosa che non mi è chiara è che cosa vuol fare Capello, perché se vuol rimanere a guidare la nazionale inglese problemi non ce ne sono, no? Domani gli fanno firmare un contratto, mi sembra che oggi sia un incontro, tra l'altro se non... una partita di poker, ovviamente Capello, come grandi giocatori di poker, le carte le tiene vicino al petto, in modo che non sia così facile cercare di capire che carte c'ha. La situazione è semplice e al tempo stesso complessa. Semplice perché Capello si era messo d'accordo con l'allora presidente Lord Prisman, in quanto, cos'è successo, in due anni sono cambiate tante condizioni, la sterlina è andata su e giù con l'euro rispetto al momento in cui lui ha firmato, Cappello ha firmato il contratto dicembre 2007 con un euro, scusa, una sterlina che erano circa un euro, 1,3-1,4 euro, poi abbiamo visto che andò quasi in parità. Inoltre Gordon Brown, prima di essere bocciato alle elezioni, ha portato al 50% l'imponibile, sì. Quindi insomma Cappello si è visto uno stipendio ovviamente modificato in peggio. Lui ha fatto molto bene perché ha qualificato in anticipo l'Inghilterra, e poi c'era questa clausola, diciamo, di ripensamento due settimane dopo la fine del mondiale, concordata alla firma iniziale, dove pagando una penale o Cappello o la federazione dopo il mondiale possono dire finisce qui, no? Cappello aveva chiesto lui che fosse chiuso il contratto, eliminando anche questa finestra e tirando dritto fino all'europeo del 2012, tutto stretto a mano con Lord Prisman, che poi va a cena con l'amichetta, la quale gli registra tutte le chiacchiere, quelle sugli arbitri corrotti o corrompibili, operazioni secondo lui guidate da Spagna e Russia per corrompere il mondiale. Si dimette il 16 e 17 di maggio. Cappello giustamente dice: e io come sono messo? E guarda caso, venerdì soltanto su a Irving un paio di funzionari federali, e sì, in effetti quel contratto non è ancora stato firmato, è ancora l'ufficio legale lì che giace. Sì. E allora in questa situazione, in questo limbo, ovviamente qualsiasi squadra, a cominciare dall'Inter, si può inserire. Lo stesso Cappello si trova in una situazione nuova, perché fino a che Mourinho era dell'Inter, Cappello era felicissimo di fare il CD dell'Inghilterra, il lavoro meglio pagato nel suo genere, trattato da primo ministro con auto Mercedes 24 ore al giorno con autista, eccetera, eccetera, eccetera. Invece la prospettiva di fare un po' di anni, gli ultimi gloriosi anni, con quella in questo momento senza dubbio la squadra migliore del mondo, con fondi disponibili per diventare ancora più forte, ovviamente è una tentazione. Certo, è una tentazione logica, e che Cappello vuole esplorare. Si scandalizzano perché per gli inglesi l'Inghilterra è una religione. Ma certo, ma certo, però io capisco anche Cappello, che comunque o che bleffi e quindi vada a bussare quattrini alla porta dell'FA che è stata sprovveduta, oppure che intenda perseguire questa chance. È difficile dargli torto, insomma. Dunque, come si diceva, con Giancarlo Galavotti, inviato della Gazzetta dello Sport, Cappello tiene le sue carte ben strette sul petto. Ancora non è chiaro che cosa voglia fare, magari non lo sa nemmeno lui. Volevi invece chiederti, Lumi, Giancarlo, sull'ultima Inghilterra prima dei mondiali, sulla prova generale di ieri con il Giappone. Com'è stata? La prova generale ieri con il Giappone è stata ancora peggio della prova generale dell'ultima di Wembley lunedì sera scorso contro il Messico. Però l'Inghilterra ha vinto entrambe le partite, contro il Messico giocando male 3-1, contro il Giappone 2-1 con tre gol tutti giapponesi, perché i giapponesi sono passati in testa subito dopo 7 minuti, e poi, vista che l'Inghilterra non ce la faceva a rinvenire, molto cortesemente, come solo gli orientali sanno fare, hanno fatto vincere gli inglesi con due autoreti, due cross, due bellissimi colpi di testa dei due stopper. Quindi diciamo, però guardiamola dal lato positivo, perché Cappello, non dimentichiamo che dice che questa squadra può battere tutte le più grandi avversarie di questo mondiale, e lui punta decisamente alla finale. Quindi se lo dice Cappello non bisogna prenderlo sotto gamba. Ovviamente anche all'italiana, se vogliamo, non c'è migliore indicazione di una squadra che avrà successo al mondiale da come comincia male. Certo, quindi certo. L'Italia insegna, si parte lentamente, stentatamente, poi si cresce. Certo. Ora vedremo, perché Cappello ha anche detto sono tutti un po' sottotono, c'è molta stanchezza per una stagione che naturalmente, secondo la tradizione, è stata pesante per tutti. C'ho due settimane di tempo per ricondizionare, credo che ce la farò. A cominciare da Rune, che in questo momento sta girando tra il 30 e il 40% del suo potenziale. mondiali. Beh, tutti un po' sgonfi secondo le migliori tradizioni inglesi, questo è il vero grande problema delle nazionali di Sua Maestà nelle grandi competizioni, spompati da una stagione interminabile sul serio. Grazie Giancarlo, buon lavoro. Nemici di se stessi, certamente. Grazie davvero. Prego. Grazie Giancarlo Galavotti, buon lavoro. Ma è vero, questo è il grande problema della... Lo diceva anche Eriksson, l'ha detto un sacco di volte quando era commissario tecnico della nazionale britannica. Diceva: io raccolgo prima di un mondiale, di un europeo, di una grande competizione, dei giocatori letteralmente fatti a pezzi da una stagione lunghissima in cui non ci si ferma mai, in cui ogni partita, dalla Premier League all'FA Cup eccetera eccetera, è questione di vita o di morte. Gianni da Bologna, poi Angelo da Napoli, poi Javier da Savona. Gianni, buongiorno. Carissimo, buongiorno. Carissimo, buongiorno. Anche grazie lei. Per avermi chiamato, io tutti i giorni vi ascolto quando posso. Una cosa sola, Dell'Ippi che non prende Cassano e Balotelli in una nazionale che ha bisogno di inventiva, ha bisogno di giovani. Sembra persino che vadano a fare un mondiale per fare un viaggio di piacere alle vecchie glorie, perché qui veramente abbiamo gente un po' cotta. Sì. Zambrotti, io sono un milanista dalla nascita, quindi insomma non è che sputo il piatto dove mangio, però voglio dire, perché ha paura di portarli? Lui tanto cosa si gioca? Ha già detto alla fine del mondiale non sarà più lui il CT, quindi... Perché non rischiare? Non è, cosa non paura è una, non è che ha paura, non penso proprio, trattisi di paura, ma primo perché è Marcello Lippi che di paura ne ha raramente, secondo perché, proprio per questi motivi, perché sa perfettamente che dopo il mondiale si cambia tutto e dunque massima libertà nelle scelte. Certo è che le motivazioni delle sue scelte non sono il suo forte, né quelle dei suoi giocatori né quelle sue personali, perché ha detto: sui motivi che mi hanno indotto a chiudere l'avventura con la nazionale in maniera così anticipata, così chiara e netta già da qualche mese, i motivi li spiegherò al ritorno dal mondiale, quindi questi non li sappiamo ancora, anche se non facciamo fatica ad immaginarli. Però quanto ai giocatori, insomma, sappiamo benissimo quali sono state le indicazioni premondiali e di Lippi nel corso delle qualificazioni delle ultime amichevoli, e non le ha tradite. Lui ha costruito questo gruppo, sappiamo bene quanto il gruppo conti per lui e si fida di questa chimica. Certo, io ripeto, più che essere un giocatore come Balotelli, a un mondiale avrei portato ad occhi chiusi, ma sono valutazioni iperpersonali queste. Per caratteristiche l'avrei portato, perché il giocatore che entra ti spacca la partita anche in 10 minuti. Però vediamo come vanno questi, insomma. Angelo da Napoli, buongiorno. Sì, buongiorno. In effetti il mio pensiero è un po' anche il pensiero di chi c'è, del radioascoltatore che ha parlato prima, solo che però direi, non è paura, è onnipotenza. Cioè, quando si raggiungono certi livelli, Lippi ha vinto un mondiale, è stato ancora confermato come allenatore, anche se, diciamo così, regole di trasparenza per certe cose sono successe, non vado nei particolari, per la verità non l'avrei preferito, perché poi secondo me poi la trasparenza è qualcosa che conta sempre. Mi rendo conto che ormai di questo non se ne parla poco, però sì. Voglio dire, in questa vicenda però di trasparenza ce n'è moltissima, perché ripeto, mai era successo e mai avrei immaginato di partire per un mondiale sapendo tutto quello che sappiamo. Ha molti risvolti questo, non soltanto una questione di chiarezza che c'è stata, che è stata fatta per tempo, ma proprio per quanto dicevo, cioè massima, mai un commissario tecnico è andato ad una grande manifestazione con così ampia libertà di scelta, di fare e disfare, eventualmente sbagliare. E devo dire che effettivamente l'impressione è un po' che sembra che questo mondiale sia un mondiale di passaggio, ma lo quello è. Ahimè, lo quello è. Che è avvenuto in Sudafrica. Nel sì. senso che sì, è così, ma anche la scelta di stabilire, di dire chi è l'allenatore già, onestamente, molti l'hanno visto come un segno di coerenza, una sì. promessa che aveva fatto. Sì, a me è piaciuto, a me questo quella è piaciuto. Verità, devo dire la verità, io sono di idea forse antica, che l'allenatore va scelto dopo. Sì, in teoria, in realtà ci risparmiamo ogni giorno il tormentone, ma va o resta e chi viene dopo. Secondo me invece è una scelta estremamente coerente, una scelta estremamente moderna questa, perché non c'è dubbio sul fatto che Lippi farà tutto e più di tutto per poter entrare nella storia, perché questo è il suo personale sogno, il pozzo del XXI secolo, sembra più che un sogno, un'utopia. anche secondo me questo rischia di essere un mondiale di passaggio e un mondiale che non lascerà molto in eredità a Cesare Prandelli. Questa è una squadra a fine corsa e che si gioca l'ultima grande occasione, semplicemente questo. Javier da Savona, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Eccoci, la sento. Ok, sì, niente, volevo sapere il suo parere di cosa pensa di il nostro Mourinho, se non tifoso interista. Sì. Questo sopporterà la pressione dei, a parte dei tifosi spagnoli che sono del Real Madrid, sono molto più insistenti, penso, che i nostri. Sì. E poi se lui farà di solita scena di non parlare alla stampa, come ha fatto lui, decisione sua, quale prendere, non parlare con i giornalisti italiani. Sì. Con una squadra che aveva bisogno di dimostrare quello che conta in Europa. Era quello che farei. A parte che ringrazio Mourinho per quello che ci ha dato, spero trovarmelo come rivale. Sì, infatti lui oggi ha detto l'Inter può vincere tutto, auguro all'Inter di vincere tutto tranne una cosa, ovviamente la Champions League. Guardi, per quanto riguarda le pressioni non ho dubbi, insomma mi sembra che negli ultimi due anni si sia allenato parecchio in un ambiente che non è semplice, anzi è il più difficile del mondo, questo sì, come il campionato italiano. È stato in trincea per due anni interi, tanto che ho già ammesso, mi sono molto più ricco dopo questi due anni in Italia. Ho lavorato due anni in Italia, ho imparato molto con umiltà. Dopo due anni in Italia sono più ricco come allenatore, ha detto Mourinho. E ha aggiunto: non sono un provocatore, ma uno che lavora moltissimo. Quindi pretendo rispetto, se non lo ottengo, devo difendermi, ma non sono un provocatore. Quindi alle pressioni Mourinho è abituato. Penso che insomma si divertirà anche in Spagna e anche nell'ambiente madridista. Sul fatto che si comporti come si è comportato in Italia non lo so, perché sono d'accordo con Filippo Mairarici che ha detto prima: vedremo un Mourinho diverso in Spagna. Sono molto curioso anch'io. Ci riprendiamo domani dalle 2 alle 3. Adesso chiudiamo. Grazie a Franco Piantanida in redazione, a Filippo Aureggi in regia. Buona giornata.